sì, c'erano i saggisti, i giornali, qualcuno ha superato il prova, l'ha mandato via, quindi siamo un po' ristretti. Però purtroppo i conduttori sono quelli, capito? Perciò non è che trovo un conduttore così, il conduttore di campo è uno specializzato in quel settore, cosa assumono purtroppo. Quindi adesso stavo dicendo, forse ci fanno dei cambiamenti da qualche altro impianto, ne mandano qualche uno per dare un colpo di mano, perché da solo non si può stare con la zona dove sono io, molto vasta, molto a rischio, soprattutto quando piove, insomma, c'è da fare tanto, perciò mi spiace, mi si è incasinato, cosa che ti faccio, avrei voluto rientrare anche domani, no? Medici non si non mollano, non so che ti faccio. Seia. Meglio davvero pigliare infezioni o ricadute. Uff. Mamma mia, c'è uno spallamento, guarda. Sono andato a fare la spesa con mamma e sono rientrato più. Ho avuto un calo, per non dire un crollo proprio di umore, di ecco, non si so che vuole stare a letto tutto il giorno, non va bene, non è normale. Non è normale, no. Sempre meglio fare dei controlli, delle cose, siamo sempre a rischio purtroppo, vedi il tempo com'è, un caldo, un po' freddo, c'è umidità, adesso poi inizia la primavera, quindi tutte le cose che ci sono in mezzo, bisogna stare molto attenti, vabbè, comunque, piano piano. Cioè ci rimettiamo, ma torna ai cantieri, oggi non sono anche andato, a vedere come stanno procedendo i lavori. E dove i lavori? Su una casa nuova. Ecco. Ma devi stare a casa per forza, cioè viene più come una volta il, come si chiama quello che ti controllava? L'ufficiale sanitario, o come si chiamava? Quello che veniva, che dovevi stare a casa. Ecco, fiscale, e già viene, sì. Solo che siamo cambiato, non te lo manda più l'Inps, capito? Non bisogna di nato, lo manda l'azienda, quindi bisogna non fare brutte figure, sennò è brutto. No, intanto io non esco mai, esco solo la mattina, Marco. Esco la mattina presto, 8:30. Vado a prendermi un caffè, insomma così che sto più comprando, quindi un caffè, faccio colazione, poi entro a casa alle 9, porto il cane, quindi sono a casa, dai 10 a mezzogiorno per rimanere a casa, così esci dopo mezzogiorno, dove va? Poi alle 5, alle 7 per rimanere a casa, perciò la sera non esco mai, quindi è difficile che possa fare brutte figure, però sai, quando mi sposto, come stamattina c'ho il certificato, qui mi sono spostato, perciò va bene, beh. Ehi, medico fiscale, mi ricordo, quando mamma doveva assentarsi dal lavoro, lì, dovevo aspettarlo perché veniva sempre, magari non il primo giorno, forse il secondo, magari anche il terzo, però arrivava, ti chiedeva le solite cose, come stavi, come non stavi, e poi ti confermava appunto la malattia, oppure una volta gli è capitato uno un po' stronzetto con i capelli rossi che era nonostante coso, dice, signora siamo, tutti stanno male, l'avevamo fatta ritornare a scuola, mica non stava ancora bene. Uno stronzetto con i capelli rossi. Ehi, come erano loro? Ma ce l'ho scritto, non sono idoneo al lavoro ancora. Ce l'ho scritto proprio nelle visite fatte all'ospedale. Quindi no. quelli che sta a casa. L'unica volta mi sono sentato quando ho avuto l'infortunio e basta. Ma diversamente non ce n'è problema per me, quindi questa è una cosa un po' così. Allora aspettiamo che passi del tutto e poi rientriamo a combattere. Non c'è anche più caldo, che ti devo dire. Sì, adesso mi è passato il carnevale, subito nei negozi mettono la roba di Pasqua. È tutto un susseguirsi di cose, capito? Sì. Anche se Pasqua è ad aprile, no, ma nei negozi appena finito il carnevale mettono già uova, cose, tutto a spendere, capito? Consumismo proprio selvaggio. A me della Pasqua mi, te lo posso dire a parole mie, ma te lo dico più, non mi interessa. E queste feste religiose, boh, ma lasciamo stare. Se stai appresso a queste cose non vuoi bene, caro Marco. Così, lo senti sempre quel rumore del telefono, non sente più? No, non ci ho badato, solo all'inizio sentiva proprio tipico dell'emissione del telefono, no? Quindi lo tengo sempre qua vicino al microfono, sono messo sull'altro lato, capito? E vabbè, doppio router, ma lavoro, eh? Ah, non si sa, io purtroppo... E da quando mi è scaduta quella cosa lì non posso ricevere WhatsApp né navigare eccetera. E quindi bisogna aspettare la scadenza per rifarlo. Perché se no ti mangia i soldi della ricarica, poi non ne ho soldi, devo aspettare. Il microfono era un po' basso, era 5 per via dell'apparato di ieri. Adesso l'ho alzato di nuovo. Adesso è a 7, dai, così posso parlare più piano e più lontano anche. No, bene, c'è una bella modulazione quel microfono. Una bella modulazione, non ci stanno problemi. Bene, vabbè, visto che presto faccio qualcosa in casa, dai. Sentiamo più tardi, Claudio, verso le 6:30, così. Quando c'è anche più gente, che entra Gianni, Gianfranco e tutti quanti. Ok, dai, se no, sto sempre al baracchino, poi non concludo niente. A dopo. Vai, Marco, tranquillo, fatti sentire dopo, Ancora presto, sono 6:20, noi siamo qui delle 7, stiamo qua. Sono qua intanto, io lascio la computer, ci sentiamo dopo, ciao. Ehi, ciao, a dopo. Beh. Allora, che parla? Balli. Balli. Beh, ci vieni a stricare. A stricare, cos'è? A stricare, a pulire. No, già mi basta quello che mi fa fare mia moglie a casa. Lampadari, tende, lascia perdere. Eia, e io ho i guanti, cazzo. Sembra una zona di guerra questa. A dopo, dai, ciao. Vai, pulisci, già sono qua. Già si uccidendo in questa stanza. Che noia, che barba, che noia. Che noia, che barba. Ciao Claudio. Beh già, qui c'è la tapignata che sta pulendo la stanza, è ora, Sì, la tapignata. Ah. Così almeno la zia è contenta che non devo pulire via. Noia. Allora tapignata, però adesso io dico, se vuoi uscire un po'. Di correnti, sono andato a fare quella commissione là che ti ho detto. Andato, avessero tre volte che dicevo al medico del lavoro e fanno il certificato, non me ne ha fatto, adesso mi richiedono il certificato del dato del lavoro, del medico del lavoro. Per tutto il resto va tutto bene, ha presentato una trentina di certificati. Cazzo, se ne ha preso 3 o 4, adesso vanno bene questo. Per quella pratica là. Però adesso che devo fare opere con loro di vicino per le cose per il lavoro. Praticamente se non mi fa il pugno, questo vanno bene. Io devo mandare via fax adesso, quando gli ho fatto vedere tutta la malata del piede, da quando ho iniziato ad adesso. E vabbè, con quelli che ci sono i certificati che fanno, non c'è problema, con quelli adesso l'ho bisogno di realizzare, come per non farle saltare la benda, se no non c'è più la cosa per bendata. Se no l'avrei fatta a fine, ma non io non ho materiale per bendata. Allora, vabbè, ci accontentato di questo. Vabbè, vabbè, meglio così. Saluto Valerio che è in ascolto. Ciao Valerio. Ok. E già, piano piano, prepara tutto. E poi, ma e come mai mi dico il lavoro non tenia. Me l'ha fatto il certificato, mandato all'azienda. Che per il momento appunto non sono idoneo. Non fino al 15 di marzo. Lui, Claudio, l'ha fatto. Ma se l'ha preso lui, non è lasciato, allora la società cazzo me ne ha capito, non l'ha fatto, ma questo non l'ha fatto preso. E invece ce l'ha tenuto lui, non mi ha dato manco all'ufficio personale, niente, perché ho preso la fotocopia, ho detto guarda, a me non ce l'ha preso. Quindi adesso aspetta domani si deve fare la visita e il certificato, vediamo. Io vendaggio non me ne tocco, se non ha la attrezzatura per ribellarmi e per rifarmi la prendatura in questa maniera, come me l'hanno fatta al centro diabetico, perché come l'hanno fatta al centro diabetico sta andando meno. Deve farmi la prendatura con la gomma prima sotto, eccetera, eccetera. Se no io non mi ricavo, mi ripeto, perché poi il piede mi si riapre a me, non è capito, si sta rimarginando, piano piano. Adesso ti scusi, domani sera devo andare anche via centro di avviso. No, già le cose stanno andando meglio, dai. Poi mi hanno chiamato dall'assicurazione, mi hanno mandato una lettera dicendo che la signora si deve responsabilizzare l'incidente e che però c'è solo la mia firma che stava aspettando che vada via a firmare. Quindi praticamente te la pare una moto, meglio così, va bene. Ok, adesso piano piano vedrai che già si mette tutto a posto. Comunque non ci stai andando a lavorare la sera, solo la mattina stai andando. Fino a luna, salvo stato. Il piede deve guarire, non me l'ha fatto più da me. Deve guarire totalmente. Una volta che è guarito poi posso andare anche a mattina e sera. Però va, gli ho detto fino a luna non ne faccio altri. E vabbè, dice che prendiamo le permesse. Facciamo scala per me, se scala quello di più. Già detto adesso, scala per me, scala lì. E io sono un po' così, perché ho ricevuto dei messaggi, volere potere, quando niente, qui e là, capite? No, comunque. Io ho la coscienza pulita pure, se qualcuno pensa lo sto facendo apposta, basta non viene qua, è venuto un medico a controllarmi, quindi mandato da loro e c'è scritto che non sono idoneo a rientrare, perciò me la fate assieme. L'hanno mandato loro, la croce da lì che l'hanno mandato. No, dall'azienda c'è scritto, controllo medico a domicilio richiesto dall'azienda. Sì, ma il medico è di Lix. Non so, penso sia privato, non so. Vabbè, comunque, questi messaggi che ti abbiamo mandati, Cappuccio oppure Collega? Qualche collega, niente di che. Ma che non si va a fare loro, Collega? Sono sempre loro, così a me mi avevano detto che praticamente quando il piede si stancava, sentivo dolore e tutto il genere, potevo andare a sedermi anche una mezz'oretta, riposarmi, togliermi la casa, farlo respirare, così mai il dottore del medico del lavoro. Farlo respirare, poi una volta che si è riposato, lo metto a casa e riparto. Però se senti dolore, cosa da dire, sì, ricordo quando ti sei levo, se ti piace, a te, alla fine un giorno lo uno tre. Vuoi venire tu al posto mio, però ti prendi quello che c'ho io, e io prendo al posto tuo, va bene. Senti io splattere, è possibile che anche ci siamo, perché a me ci sul canale non fai, boh, assurdo io. Ma mi sono attende, ma c'è qua, scala di ciocca. Vabbè, sì, infatti non è che, non so come stava lamentando, siccome non c'è personale qui e là, siamo stati riposando perché non è facile sostituire, a me, capito? A me, a lui, ad altri che hanno quei carichi di conduzione. E quindi non c'è personale, non sto riposando, qui e là, volere potere, non vuole potere cos'è? Sono solo io che comando, comandano i medici, non io. Quindi, ho detto, chiama il sindacato e dille che tu stai lavorando solo, non puoi lavorare e ti fai mandare un sostituto. No, no, meglio di no, meglio di no. E lo vuol dire che andava così. Non capisco. Ti mette le paranoie, oltre che non sei bene, fuori tu i paranoie, e non stai tranquillo, anche se in campo, però non sei tranquillo. Sì, diciamo che non me lo sarei aspettato, perché siamo in buonissimi, ottimi rapporti, più che buoni, capito? Abbiamo delle zone dove ci dividiamo, dove seguiamo, dove stiamo molto, molto assieme, quello abbiamo, eccetera. Purtroppo non è colpa mia, io già quando mi è successo era di venerdì, sabato riposato, domenica lui era a riposo, io sono andato a lavorare con 38 di febbre, non riuscivo manco a ingoiare acqua per non farlo rientrare, e poi mi fai queste battute, a me non è che mi vada così bene, no, non c'è problema, ti ripeto, l'azienda ha già mandato il controllo, quindi il medico c'è scritto, mandato tutte le fotocopie via fax, perciò c'è scritto che non voglio niente a lavoro, c'è l'informazione, devi andare al coperto, capito? E io non vedo già, purtroppo è così, si lamentano e vanno a andare di tu, hai capito? Quando di voi di malattia, per vedi la gente la mandano. Io ho detto sempre la cosa, la gente mi avrà sempre da dire che fai bene o che fai male, impara uno, cammina dritti dove devi andare, devi fare ciò che feci, tanto la gente avrà sempre da dire. Io lamentarsi in certi matrimoni, è finito. Però era buonissimo, eppure cioè, e alla fine mi ha fatto l'orecchio dello sposo, questa cosa ci è rimasto male, che è normale, no? Cioè, ma come l'ho preso, e non penso che siano, ma forse non ho così troppo, manco a mannare, un altro piatto lo stesso che ho sentito l'altro matrimonio, c'era il filo di proprietà di questo uomo, io vorrei tipo di vino, questo qui a me non mi piace, questo vino troppo forte, questo è collato, cioè ha sempre da dire la gente, capisci? Lo so, ma non ti ripeto, poi quando sei in, quando hai un buon rapporto anche con l'azienda, che io grazie a Dio non ho avuto, è normale che ti mandino i controlli, però sentire un collega così lamentarsi ti fa un po' male, capito? Perché sembra che lo stai facendo apposta, lui stesso mi aveva anche visto durante la settimana che non stavo bene, non riuscivo a deglutire, mi facevano la gola, era all'inizio, eppure non sono mai mancato. Però è chiaro che quando poi non ce la fai più sei in una fase dove c'è il pericolo di del peggio, cioè non è una cosa da nulla, è stata un'incisione, al collega Gavi è anche andata bene, perché fortunatamente è andata bene, però adesso devo rimanere a casa perché sto facendo la terapia e quindi non è che posso andare a respirare roba sporca, capito? Poi, cioè, a loro cosa mi interessa, non capisco. Non so se lo fare il capo di loro, non ci può fare, io non percepisco certe cose, perché alla fine divento cattivo, quando mi dicono certe cose io divento cattivo, la mia collega, ma tu non pubblici quindi direttamente al lavoro perché vendi all'80% del trasporto per la vendita. Ma quando la vendi tutto per reso io da quando ci sono col lavoro, ne passano di rami e di cose di altri, già ne passano, fregate. Chi sta male più queste battute che infatti le ho mandato un messaggio stamattina su WhatsApp, ho detto se va bene a te così va bene anche a me, non ti lamentare se non ti stanno dando ripulsi, perché il riposo devi fare, perciò sono loro che devono trovare la soluzione, non tu, ma lui sa. Molto molto giovane, se tu ti immagini che il più anziano di tutto il distretto sono io, perciò non, in tutti questi anni non ho mai creato nessun disagio, perciò non ho la coscienza pulita, poi ti ripeto, dice per lui che vuole farsi vedere grande, però poi sotto sotto si lamenta con me, non lamentati con l'azienda, perché ti lamenti con me. Il problema lo risolvere l'azienda, anche se magari involontariamente glielo dai tu perché ma però è l'azienda che deve risolvere delle cose che purtroppo ci sono questi casi qua che tipo queste influenze che ci sono io che mancano un po' di personale e l'azienda è sulla terra e l'altra volta detto, cosa facciamo? Chiudiamo 7-5 malattia in una settimana. Non si possiamo fare nulla, non si può fare nulla, no? Possiamo sapere come sono le cose. Adesso domani c'è questa visita di nuovo, il medico del lavoro, te lo dico, che la cosa la stanno curando, c'è il diabetico adesso. E che il dottore ha le mani d'oro, mi ha detto che era sbagliata quella cosa che stavano facendo, che tutti i medicinali che mi stavano dando erano veleno, perché dice alla fine cos'è? Praticamente questi medicinali servono per asciugare la pelle quando è fresca, se tu continuamente li bruciano anche i tessuti non faranno mai del taglio perché formano il calo, i tessuti diventano secchi e formano il calo, capito? Beh sì, ho solo visto una ferita di mio fratello che è diabetico lo stesso, come si comporta. È molto diverso da uno che non ha diabete, capito? Già, io per l'influenza non mi sono mai assentato, sono sempre andato con 37 di febbre, anche 37 e mezzo, quasi 38, mucco di radia, con la tosse, capito? Prendendo sciroppi, pastiglie, VVC e balle varie e andando a lavorare. Con questo mio intervento io non la sento di rimetterci la voce per farmi dare la medaglia da nessuno, ok? Quindi ti ripeto, ribadisco che la coscienza ce l'ho pulita. Se quello che ha qualcosa da dire che si rivolga a chi si deve rivolgere, no, ma era molto tranquillo, però l'ho visto nel dire che stava girando la frittata, io non aggiungerò nulla, perciò vedo lui quello che fare, che deve fare. Ci sono tanti impianti con gente a sostituire, allora tolgano un conduttore da qualche altro impianto, glielo affianchino e poi si vedrà. Non so cosa dire, si arrangia. Io quello che devo fare lo sto facendo, sia quando non sono a posto non ci rientro, perché è molto molto pericoloso anche stamattina. Anche io ho fatto la visita di controllo, infatti non mi aspettavo che mi desse altri 15 giorni. Capito? Perché la gola è ancora infiammata, sto facendo ancora le punture di penicillina, sto prendendo l'antibiotico, avevo fatto una travaglia a guidare con l'antibiotico in corpo la mattina presto alle 7, ma non c'è niente. Vai, i medagli sono finiti già, io ho già l'atto, anche tanto. Capito? Come te, quindi se non so vergognare i colleghi e tutti quelli che parlano come colleghi. Tanto il fatto di guidare il cavolo, il fatto che respiri aria fredda, l'aria fredda ti porta a avere infiammazioni, così dice, non è questa, magari la mattina è inoltrata, poi si sistema una giornata se non è piovosa, però la mattina presto c'è un po' di umidità e con i polmoni respiri l'aria fredda, c'è tutta la faccia, e quell'aria fredda è quella che fa più male. Già, parte l'aria fredda, io lavoro dove i batteri sono all'ordine del giorno, quindi per andare lì devo usare la mascherina, quello che mi ha detto l'ottorino, anche uscendo per il momento dovrei usare la mascherina. Fortunatamente non sto uscendo perché vado da qua Pietra dei Segni a prendere un caffè e poi rientro, però io non posso fare 6 ore con la mascherina in bocca, non c'è niente, non c'è già un invaso. Sono cose che sono molto fastidiose, specialmente la gola, con dei bruttici, eccetera, eccetera, non è il massimo. E vabbè, ma non organizziamo qualche cena da dove c'è l'aria. C'è che lo proprio organizzare, che pure l'abbiamo fatto. Ma come siete nella Capignara? Da prendere la pensione l'uno, che te due non ne ha più, cosa devo fare? Perché spendacciona la Capignara? Ad esempio qui la pecunia che te muoia nel capo, a conservarli i soldi. E come fai a conservarli? Perlomeno a me non bastano più, nel presente di diretto. Siete tratti in due, oggi ciao Eugenio, ciao anche Natalino, buonasera. E già la sapete per tirare, ne ho preso altre 100 euro stamattina, io ne ho preso altre 50, quanti di altre 100, non bastano più, non la sapevo, la sapete stamattina, allora, ciao fai, dopo mezzogiorno, oggi io non esco, andare a piazzare 100, va bene. Ho preso le segni, ho preso un po' di formaggio, il cottamustia, un po' di fresa, un po' di formaggio da mangiare così, capito? Un po' di frutta, un po' di verdura e sono rientrato. E buoni chili, sempre di là, buoni. Sempre giù, no, per comunque, fino a quando ci sono, quando non ci sono, viva Gesù. E beh, Eugenio. Via, collega. Sì, c'è anche Natalino, Claudio. Ciao, compito, io ti ho salutato a Natalino io, è Eugenio che non lo sente. Oggi ho conosciuto la cultura, ho detto oggi ho conosciuto la cultura. E allora, ho trovato a Concetta, vicino a San Arriti, stamattina, stava a pascolare nel campo. Cavaga. Andare. Anche tu dici... Hai sentito la nostalgia del pastore tedesco? Ma molto era Natalino, quello pastore tedesco. Ah, cappagato. Capito, dai. Andava, ecco era bello. Ma sarà molto di vecchiaia. Ma te, adesso c'hai l'altro, dai, veloce. Sempre per casa, sì. Ma tant'è che casa non sta bene, è un grande. Beh, è un cane troppo grande, sì. Cioè, sono grandi nostri, il posto del tedesco è enorme. Non è un cane d'appartamento, quello era lì, dove era Natale, in campagna. Lì è bello, sì. Vediamo Eugenio, voi sei convenienti? Mamma mia, che stai uscendo pessimamente, dicevo, Gianni. E anche per me, con i neschi, con il baracchino da controllare, da mettere a posto, se no è un casino, non fa, Eugenio, non fa, l'hai chiamato Massimiliano. E la gente tende a chiamarlo, chiamalo e fatti dare quell'altro. Tu usi tra i genguche, per carità. Poi Vittorio e il baracchino, non serve a niente, non serve a niente, bruttissima modulazione, brutta proprio, capito? Brutta proprio, non serve a niente. Devi far dare l'altro baracchino, quello che c'ha, quello collega di Massimiliano. Ma io glielo ho detto, Valentino, dall'inizio, fidati di quei modificati e dei problemi. Io avevo proprio gravissima, me ne hanno offerto uno da poco, chi mi aveva già dato il magno, a 450 euro, no, non spendo io soldi così, non ne butto soldi queste cose, già basta quello che ho buttato in baracchini, tanto per fare due chiacchiere sempre questo, quello là in macchina non ne metto, per fare che cosa? Per tenerlo qua buttato, no. Vabbè, ma te ne sono per tutti i problemi, perché non devi mettere né amplificato, non ti fischia, esce bene di radio, capito? Ti spendono a volte, non hai queste paranoie di stare a cambiare, a fare, adesso qualche cosa io, quante ne ho cambiate io mi trovo, di trovo di quello che andava bene. È un casino, dai, tanto lì, ripeto. Cino, non ne sappiamo, la radio è cupa, un bel cupa, no già, per lui va benissimo, alla grande, per mettere nel camper quelle sono radio eccezionali, capito, una da 48 modificato, che non è grande va bene, ma per me ho detto, a me me l'hanno offerto, di comprarlo io, non me ne voglio nulla perché io in macchina non le metto, a casa non le uso, quindi cosa dovuto a fare quei soldi? Prova, Eugenio, no, per arrivare un patato in bocca, Eugenio, magari tienilo di scorta, ma quello da togliere, nel campo bisogna mettere un baracchino serio come Cristiani che ti dia la possibilità di uscire bene, capito? Va bene, barone, non uscino, così è bruttissimo la radio. Capite, già si capisce, sì. Ma non è modulato da niente in digita, no? Sì, proprio chiuso, non hai nessuna tonalità, nulla, zero, sembra che stai parlando dentro una tambulla. Ma ancora peggio, non hai proprio acuti nulla, bisogna stare attento se non si capisce niente. Adesso sei a casa che non c'è rumore, quando stai viaggiando che c'è USB, segnale, sale e scende, non si comprende nulla. Siamo dei bobbi di microfoni. Sempre tonalità così. Chi è? Stai tu sì. Ne mette poco di microfono. E tu già ne hai il microfono, dai uno a Eugenio, un baracchino per la macchina, non ce l'hai? Buono. Ne ho, sì, ho 7 di microfoni. Microfoni anzi. Microfoni da tavola o di tavola oppure di plastica? Di tavola e anche manuabili ce li ho. Buonasera a tutti. Manuabile, ma stai meglio, la tachipirinha te l'hai presa? Sì, anche le supposte. Preso. Ciao, aspetta. Poi c'ho le polangine a casa, quelle tipo viscide. Cosa c'hai a casa? Le polangine. Ah, ho capito. Quelle supposte quelle grandi. Che ti servono qui? Quelle di glicerina. Fai di rase, ma. E poi c'è mamma, dice, mamma mia, come faceva vedere mamma, scappavo, sì. è meglio niente, bu. Ciao, stai, buonasera, ben sentito, oggi non so cosa dirti, bravo, registro di farmi la sentire, così lo capisco, una cosa un bel... molto strana, capito? Proprio sei tutto cupo, sei un bel messo male. Vediamo, adesso ti registro, eccolo qua. Prova a parlare oggi. Mamma mia, adesso te lo mando qua. Riprendi Natalì, che già ti sente Stefano. Natalì non lo prendo, dai. E allora Stefano, cos'è di libertà? No, già, sto facendo roba qui in casa e insomma ho altre attività radio e quindi non sono entrato in 27 così. E ho visto che ci sarà arrivato il mio gruppo. E io. Ho visto tutto, io sono sempre fiancato. Ah, è già nel caldo. Dove li guardi i cacchi di Stefano tu? Cosa? Dove li guardi i cacchi di Stefano? Non si dice. Ah, così è? Va bene. Ieri c'era in 15 Stefano, Guatemala e Guadalupe. 15 metri. FG5 GP e TG9. India a novembre, 15 metri, bei country quelli, Per qualcosa, l'ha messo su Facebook. Ah, su Facebook siete, no? E guarda, geramente, mi manca solo Facebook, e uscì, mi cura a terra, la gente risponde al genio. Stefano, lasci che te lo chiedo, chiamato. Guarda, la verità, io ho capito che stava giocando a me, però non capisco quello che dice, è troppo barattolosa la modulazione. Non è così, oggi, non è così, no, oggi la tua voce è bella squillante al telefono, sul vocale, qua è cupa, vedi Stefano riesce a capirti, non, se non stai attento ti mandi in muro di balauri, non si capisce niente. Ah, così è, eh? Io a sgobbare, voi a divertirvi, ciu ciu ciu. Vai. Guarda, mi ha mandato una foto, per gatto non te la posso mandare, di due pipistrelli col ciccetto coperti con il plaid, Valerio. Se vuoi ti rimando, perché tu sei uno di quelli, capito? Sarà con la... Ehi, mandala, che poi attacco il wifi di casa, dai. Allora, così tu sei vicino, capito? Stai così, stai, con questo biberò in bocca, sempre mangiando, e coperto dal plaid. Dai, mi sa che per oggi non ci dice niente, dai. E continuate, dopo, se riesco a entrare, ciao. Che si mangia i cani, ciao. Si mangia i cucciucci. Bene mela, bene mela. C'era Antonino, chiamato poco fa, non ha risposto. Antonino, ci si. Aspetta, non rispondi. Io fra poco chiudo, che c'ho da fare. Sono un po' impegnato in questi giorni, per cui poi domani mi trasferisco a Olbia, inizio a lavorare mercoledì e quindi vi saluto. Allora. È meglio sì. Perché stare così fermo e operoso non mi piace, non mi piace per niente. Per cui è meglio che mi muova, se no qui siamo fritti. Inoperoso? Certo, inoperoso. Certo, certo. Anche il Rosolitto? Rosolitto sì. Mi raccomando, portati la tachipirinha, capito? Quindi c'è freddo. No, Stefano è troioso. Boioso, troioso e Rosolitto, Stefano. Ok, prova il gesto Gianni, cosa ne pensi? Prova a fare un passaggio, no, sempre cuffa è per me, ha migliorato appena appena, ma è sempre cuffa, manco io lì, è strano che sta così cuffa, magari non vuole l'altro baracchino, che se metto qua è un po' forte, forse il tipo di baracchino non si adatta. Che microfono è? IM1000. Non è a tutti che si adatta. Ma io va benissimo. Io ce l'ho. Vabbè. Esci che sto qua. Ma quale baracchino c'è? L'Alan 48? No, come? Già, quello che dice Stefano è pure realtà. L'Alan 48 è molto molto particolare. Quindi non tutti non riceve tutti i microfoni, può darsi pure che è così, che il baracchino non c'è niente, ecco perché oggi ti continuo a dire, come ti ho detto ieri, che bisogna provarlo con diversi microfoni, quindi togli il DM1000, mettere intanto un microfono normale, suo originale, ok, che ci sono, ce l'abbiamo un po' tutti quei microfoni, si fanno le prove, poi provare per dire un M300, ecco, provare un F24, un F10, un qualcosa del genere, e vedere come si comporta, perché può darsi pure che quello lì non va bene. Ci vuole un microfono che esca acuto, E10, lo ZG da Palmo. Sì, la bigliai fuggirà, che ti hai dato l'M300 qua, un microfono si via nuda, per carità. Non fa vedere prima oggi, non ti ha pensato a dire quando devi fare cose, invece di fare la garrona, magari te l'ha detto che non funziona, magari te l'ha detto. Se te lo facevo sentire io, tarato bene, vedi che funzionava. L'ho avuto io l'M300 con l'Alan 48, era una bomba, e oggi lascia perdere, mi ha giocato mille di brui. Tu subito hai pigliato, l'hai dato, ti ho dato un microfono alla Gimbrano, vabbè, problemi tu sono. Cosa hai detto Marco? Ma rattapiedi, vero? Allora, manco vero l'hai paruto. Vai, vai, fai dentro un trattore, vai a vendere un terreno, vai. Allora, non so, manco vero l'hai paruto. Vabbè. Cosa hai detto Marco? Parla con Eugenio che ci parlare con me. Io non me ne intendo di queste cose. Tu gli esperimenti li hai già fatti con i microfoni, parla con lui. Tu prima fa vedere la voce in andaga. Fate un colpo di ali a testa. Questo è il figlio che ha fatto il canale vintage. Sto con il salone e basta. E beh, da solo sto parlando. O ve la prendete in gomma della vostra mano? Ma è che lui lo piace, sta facendo Per casiera invece non sei tu. Non è io, sei te. Allora, Forteventura. No, esatto, ci ho tutto spento io adesso. Già spento il computer quanto c'è. No, oggi ho fatto un po' digitale, basta, no, niente di particolare. Ho fatto una ventina di collegamenti solo in digitale. E boh, tutto qua. No, io niente. Un collegamento di 40, ma ti ripeto, giusto per far girare un po' le antenne. Ma sì, è di HD. E poi l'altro giorno ho fatto i 15 metri di Guadalupe e di Guatemala, 5,5 tutte due anziano, 5,5 l'altro 5,7 senza amplificatore, però senza amplificatore, e uno ha giocato di tutto. Da quando sta funzionando il Google Cut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ma sai che io non sono un grande amante, ma giusto quando c'è qualche canto di così interessante a lunga distanza ci provo. Grazie a Dio stanno sempre bene, perché le direttive stanno funzionando veramente da Dio, soprattutto in 15, in 20 e in 40. 10 metri non c'è mai nessuno, manco spot bisogna 10 metri, chiusa completamente. Gianni, se passo tu con queste antennine interne, queste antennine giocattolo che c'hai, Claudio? E le antennine giocattolo, sì. Sono finiti i tempi del canale a pesca. Guatemala non è dietro l'angolo, 12.000 km, no, 9.000, 8.000, quant'è? E Guadalupe, non sono giochi di Caruzzo, non c'hai le antenne, se no ti attacchi alla lenza o al tirante. Bene, bene, bene. Gianni? 68. Ho finito adesso, perché ho detto inutile stare a fare mezz'oretta e poi non fai niente. Ecco qua, adesso mi copro che sono in maglietta dal caldo. Bene, bene. Perché mamma anziana non ce la fa fare queste cose. E quindi ogni tanto mi tocca. Poi quando verrà che sei tu, mia zia, che ne sa troppo, ci aiuterà ancora di più a buttare la roba degli stanzini. Se abbiamo gli stanzini o la roba alta e ti arriva il torace, lo sai. Tavolini da campeggio, biciclette, cosa tutto c'è? C'è di tutto e di più. Ma caro mio, devi avere un posto per poter mettere. Io prima mettevo tutto su mansarda, poi basta, la roba non serve, buttata via, niente da fare, sennò diventa un casino fuori. Sì. Quando ho trasloccato ci ho messo 3 settimane a togliere tutta la roba che c'era in mansarda, ma roba davanti, ma roba che non serviva a niente. Se c'è roba di 20 anni fa ancora, canotti dell'89-90, grandi, tutta roba che non usiamo più. Oi, non mi ci far pensare, mi viene l'orticaria a buttare da quella roba. Tutta roba acquistata negli anni, o meglio dei decenni, no? Poi non si usa, si accantona. E insomma, vabbè dai. Io mi ricordo quando abbiamo fatto il trasloco da Viale Mamelia qua, no? Non avevamo quasi niente, no? E quello del motocarro era sgomento, diceva, ma quanta roba avete? Allora, non avevamo nulla, se viene adesso, dico, gli viene un infarto. Sì, perché stai sempre mucchiando, la roba non serve, va buttata via. Capito? Io più ti dicevo, un arredamento completo da poter arredare su, da mansarda, sta girampato tutto, perché non me ne frega niente. Ma ti pare che devo stare lì a portare su tutto? L'unica cosa è che c'è un divano nuovo, dei divani che l'ho tenuto di scorta, non si sa mai, volevo metterlo qua dentro, mi sono radio e metterlo per l'ombrato, e quindi l'ho messo su, coperto, pulito, ordinato, tutto il resto, ci ho buttato tutto l'altro, proprio chiamato un motocarro, ci ho buttato tutta la discarica, ok? era una cosa allucinante, computer vecchi, pali, di tutto via, tutta mondezza che non serve a niente, mobili vecchi, comodini, balle varie, i comodini li avevo regalati, nuovi di mie suoce, a mucchiare roba così non va bene. Ci sono tutti i tappeti che aveva mia suocera, adesso mi devo prendere un sacco come rientro, 11 sacchi di juta, ci rimongo tutti dentro e ci riporto al portafoglio. Arrangiatevi, perché è un peccato buttare, sono tappeti persiani, tappeti sardi, capito? È un peccato buttare, però tutta roba da fare fuori, perché poi te la ritrovi in mezzo alle balle. Sì. Ma questo cos'è, la RAN 48? No, il Cobra. Sì, il normale del radio. Radio normale, normale. E infatti stai uscendo basso del radio, nel senso microfono normale. Ehi, ehi, ehi. Vabbè, adesso mi riposo, dai. Bene, fai le prove, Gianni. Dicevo, c'è poco da fare, se il baracchino esce il cupo perché c'è un modulatore così così, bisogna mettere un microfono che sia acuto, tipo lo ZG-M93 o 95, uguale. In uno in più c'è il bip, va? Escludibile anche. Ma quello di Eugenio è micidiale, non so. Aspetta, andare un attimino in bagno, devo subito, oggi. Chi è rimasto qua? Nessuno, beh. Un attimino che mi copro che sono troppo leggero, ma mi ero accaldato facendo roba qua. Queste bottiglie accumulate di plastica, bottiglie accumulate di vetro. A fare la pila di bottiglie c'era, la piramide di bottiglie, guarda. Questa roba che pesa poi il vetro, mamma mia. No, no, eccomi, sono qua. No, no, ci sono proprio in casa, 31. Dopo portiamo il cane. Ehi. Era tornato da Lidl che era un po' abbacchiato, poi mi è venuto il raptus, sai quando... Il raptus, no, ho detto bottiglie su bottiglie, c'erano bottiglie in vetro, lasciate così al bordo degli angolini, bottiglie di plastica in camera mia, c'era a fare una piramide. La plastica almeno è leggera, ma il vetro pesa, capito Claudio? Poverino. Io sono delicatuccio, lo sai, no? Non sono abituato a lavorare, cazzo, potrebbe venirmi un infarto. Ma perché torci per fare quella pulizia lì, lui? Stamattina mi ho pulito tutta la cucina, l'ho smontata. Tutti puliti così con l'acciaio, con la pulizia, ma domani tocca ai lampadari. Io ho purtroppo i lampadari del salone che sono in vetro di Murano, capito? Mia moglie non li tocca perché ha paura, allora devo piano piano, cosa a cosa, pulirli, prima la polvere, poi pulirli con lo straccio umido. Eia, il vetro è Murano, eia, quelli sono belli. A pulirli è un po' un casino, in modo che siano belli cristallini, no? Bene, bene. Vado a bere un attimino che c'ho la salivazione azzerata. Ehi, ehi, c'è il 15 di nuovo. Adesso tremo, anche togliete un mezzo del valle. Aspetta, è caso in ore. Non stavo guardando. C'è una crocetta, come mai? Eppure l'ho fatta a Cipro. 5 Giappone 0 November 15 mette, forse no, non ce l'ho perché non avevo ancora l'antenna, vabbè, non ho fottuto. E allora oggi? Dove hai detto che? In 15 metri, io ce l'ho in 20 e in 10, in 15 no, perché ho la crocetta rossa, 21.263, 5 Giappone 0 November Alfa. Cipro mi hai detto, sì ce l'ho. Io in 15 no. In 15 no, poi mi sto segnando il classe, se lo guardavo ce l'ho in 10, in 20, in 40, in 15 non ce l'ho, fatti un bacinetti. forse non avevo ancora le antenne. Sì, ma tu lo senti? No, è tutto spento, non manco acceso. Non manco acceso. 21 abbiamo detto, 200? Ah, non lo so, 21 a boh. 21, 283. Aspetta, sto accendendolo. Vediamo se sento qualcosa. Vediamo un po'. Aspetta un attimo, vedi un po' se lo senti, poi come sapere. Aspetta il controllo. Accendere l'antenna. Ah, eccomi qua. Mi sto innaffiando. Volete anche il lupino? Dicevo Eugenio, prima di fare altri acquisti, al limite l'IM1000 venditelo. Se abbiamo modo di vederci, io ti posso prestare lo ZGM93. Ti devi far fare le saldature giuste da Massimiliano e provi quello. Se va bene puoi comprarlo, capito? Uguale. Se non va bene provo un altro microfono. Ah, quello è. Ti interessa un A48 XL Multi, piccolo come il 48 da macchina? Non lo uso più, c'è solo un cavo da nastrare, perché era stato installato in modo barbaro e poi io l'avevo rifatto, però si è di nuovo staccato. È una fesseria e funziona bene anche col suo microfono, esce bene già col mic originale, capito? No, non ne voglio vendere, te lo do e basta. Poi ti puoi mettere un microfono ulteriormente migliore. Si può dire ulteriormente migliore, vabbè, se non basta la modulazione sua, capito? E dobbiamo avere modo di incontrarci, però bisogna rifare questo cavo, o lo faccio io prima. Per il resto funziona bene, magari è un po' rumoroso, ma se tu in macchina, nella roulotte, metti un po' di squelch, no? Il tanto da eliminare il rumore di fondo, no? Appena gli squelch. E io lo usavo anche in macchina, capito? Ehi, ehi, già troviamo il modo di metterci in contatto. Guarda, vediamo un po', il tempo come sarà giovedì? Perché giovedì, sai, c'è il sole bancarelle a Pro Torres, e noi quando possiamo scendiamo a Pro Torres, capito? Potremmo provare, non lo so, tramite Massimiliano, al limite mi dà il tuo numero, ci mettiamo d'accordo per un appuntamento e ti passo l'apparato, capito? Eia. Oia, che stanco che sono. Per una fesseria che ho fatto sono stanco. Però almeno una cosa in meno da fare l'indomani. Ma io che ci è rimasto qua? Tutti a dito dietro siete, io. Oh. Ma tutti drumiti sono. Scusami, mio hermano, sto facendo un questio con Stefani. Un questo locale, dai! E io una prova lui stavo facendo, perché è uno spot, volevo vedere se effettivamente era così, ma invece lascio a questi americani, fanno i film dei bongo ingazzati. E quindi stavamo provando là in 15 metri. Vabbè, va tutto, va tutto. Spegni, tutto spento. Diciamo che c'avevo un baracchinetto funzionante che non uso più, perché ormai uso sempre il 3009 e posso dare quello, non mi interessano i soldi, tanto vale poco. 48 plus multimi, esce bene di suo con il suo microfono, esce già bene, capito? Non c'è bisogno di amplificato, poi se può uscire più forte ce lo può mettere, certo. Ebbè, incassato il microfono, sì. Cazzo, non esce la portante, aspetta. Parliamo il baracchino, vedi oggi? Metti ancora che con Marco, che è sempre disponibile per queste cose. Lo prendi, metti quello lì e lo provi nel camper e poi vi mettete d'accordo. Marco non è di quelli che ci specula su queste cose. Quello è bello, bello e buono. diciamo, ma è funzionante, capito? Io l'avevo comprato già usato. Ehi, tu per esempio quante volte vieni a Sassari? Ehi, allora mi sa che stanotte cerco un nastro isolante e lì rifaccio quel cavetto, il cavetto dell'alimentazione. Glielo rifaccio e così è pronto. Tutto sta a trovare il nastro isolante nero, quello buono, quello che avevo io, della 3M mi pare. O cos'era? Va bene. Ma Claudio, beh, Gianni, tutti spariti. Gianfranco non è entrato oggi, no? Ciao, ascolta Gianfranco. Gianni sta controllando un microfono. Sì, ho capito, magari non è nuovo, però non è toccato, ho capito, e funziona bene, perché mi pare che l'ho già sentita con la radio, avevamo fatto delle prove. Sì, quello ha un microfono a condensatore, originale, riesce già benino, ho capito. Ehi, ce l'ho nello stanzino, adesso lo prendo, lo metto in auge un po', devo rifare quel cavetto che si è. Quello che ce l'aveva prima ha fatto dei cavetti cortissimi, corti, cioè mi è arrivato così, allora gli ho dovuto allungare i cavi un po', mettergli un metro di cavo rosso nero e fargli con la stregionante tutto il pezzo. Ehi, tanto mi... ne ho pure da buttare dei baracchini, tutti i soldi buttati poi mi. Ma quando allunghi i cavi così non mi mette un altro isolante, prendi un mammut e lo allunghi col mammut, capito? Che è molto più, è molto meglio stare a mastrare così i cavi d'alimentazione, è più, va meglio, è più ordinato, è più contatto, fa, va meglio, capito? Sì, ma quando vuoi, possiamo anche scenderci assieme, Eugenio, una mattina, capito, prima che lui usi il camper, intanto lui usa sempre il sabato e la domenica il camper, quindi c'è tutta la settimana, basta, ci mettiamo d'accordo, un attimino si prende, ok, chiaramente dopo mezzogiorno, tanto ci vuole pochissimo andare e tornare, si piatta, si prova, via, se no, se sale lui ci vediamo e glielo vai, se lo collega. Ma voglio vedere, capito? E quell'altro si controlla, si fa controllare e si tiene di scorta. Esatto, puoi fare anche così oggi, non c'è problema, vieni sotto casa, ok? Perché da Marco non si può passare con quel mezzo lì. Vieni sotto casa, Marco, si avvicina in macchina, un attimino, lo attacchiamolo proprio, sono qua. Convintissimo che tu hai risolto il problema, perché quella radio esce molto molto bene, è sempre una radio adattata che però ti consente di andare molto meglio rispetto a quella che stai usando adesso. Eia. Microfoni amplificati lì per esempio non ho mai provato a metterli, però modulatore va abbastanza bene, dai, è di tipo semi digitale, mi, cioè c'ha il display a cristalli liquidi, però allo stesso tempo ha lo smitter a lancetta, capito? Sul come si dice, sul microfono hai i canali, capito? È comodo per non stare a allungare la mano e andare all'apparato, c'hai i canali up down. Un baracchinetto che può rivivere, dai. Visto che io l'ho accantonato perché ormai uso sempre quelli con le bande laterali, poi 3.900 secondo me è il migliore in assoluto, prende poco QRM, ha un modulatore bello limpido, qua se potessi me ne prenderei un altro di 3.900, lo sai, e ci sono andato vicino mio a farlo, Claudio, così ne avevo tre da parte per il futuro in caso di rotture, sai. 3.900 l'ho avuto io, un bellissimo baracchino, io purtroppo li chiamo baracchini perché sono baracchini, però un bellissimo baracchino funzionante, completo di tutto, superstar, bellissimo per baracchino, molto molto funzionante, però lui ne vorrebbe proprio uno piccolo da mettere nel camper, capito? Perché già se per te è un po' più grandetto e poi grandetto non è. Però lui le va bene quello lì. Quello le va benissimo a lui. Cosa ne fai di ODM1000? Cosa ne fai di ODM1000? Non ne fai nulla. Prima lo provi così, normale, col suo baracchino, che col suo microfono che ha condensatore, c'è molto bene la radio. Cosa ne fai di ODM1000? Poi magari si può collegare al DM1000 e vedere se funziona bene il DM1000, perché no? Oh no, già si può, caspita, si può. Lo spinotto è a 6 poli, credo che sia a 5 o 6 poli. Basta usare uno spinotto a 6 poli, tu li saldi solo la massa, la portante, aspetta, no, quel prima, la ricezione, cavatina della ricezione, la massa, la portante e il mic, la capsula microfonica, basta, non devi saldare altro. L'up down naturalmente col DM1000 lo perdi, giustamente. Oh, vado a portare il cane, arrivo subito. 10 minuti sono nuovamente qua, li prendi oggi? Sì, ci mettiamo d'accordo. Adesso non so se ho i mammut per mettere a posto i cavi. Poi una cosa, tu come lo attacchi il baracchino all'alimentazione? Con le banane o con i fili in cru... Come lo attacchi? Sì, le banane classiche, dai. Quelle rosso e nera. Si chiamano banane perché sono così, col puntale, dai. Eia. Gianni doppio room, ci sei ancora? Sei andato a portare il cane? Stai provando microfoni? Marco, adesso uscendo? Caspita se stai uscendo. Ok, dai, l'ho messo a posto. Devo chiuderlo un secondo. Fai pure. Io già sono qua. Sì, devo vedere se ho dei mammut, però non credo di averne. Al limite, poi lui se lo può fare come vuole, se lo può fare a nastro isolante, il giunto del cavo, se lo può fare a mammut, come vuole lui, cioè. Poi io non è che sia molto bravo a fare queste cose. Le faccio un po' la carlona, diciamo. Ecco. Oh, ma quando adesso? Vabbè, Gianni è un po' diverso. Però la tua è la cupa davvero. E già si rimedia tutto, dai. Tanto credo che, sono sicuro che l'ALC di quell'apparecchio è già aperto, perché esce forte. Bene, dai, ci sentiamo domani, magari riusciamo a fare anche tutto domani, o domani o dopodomani, dai, l'importante è averlo per il fine settimana. Ok, dai, rimango un attimino in bianco, dai. Ehi, però devo rifare il cavo prima. Devo rifare il cavo con il nastro isolante o con i mammut, vediamo cosa ho da parte, dai. In modo che sia utilizzabile subito, mi provando subito. Attenzione Eugenio. Sono qua io, eh. Io mi sto ascoltando, sto facendo benissimo, no? Vabbè, diciamo che non è squillante come il Galaxy, capito? Già. Vabbè, ma non può dire che è fatto per la sua, proprio fa schifo, usando la frase, ma no, è una radio tutto schifosa. Che apparato è? Cobra. Ah, Cobra. Eia, con che microfoni? IM1000. Eia. Poi, per esempio, se... Io in macchina preferisco avere una radio più squillante, perché quando il segnale è basso le radio con toni un po' più bassi non risaltano molto, mentre le modulazioni con toni più alti risaltano. Ecco perché io mettevo lo ZG in macchina, no? Perché era più acuto, tutto lì. Poi che abbia il tasto giallo, pazienza, glielo pitturo di nero, cosa vuoi ti dica? Glielo faccio con lo spray. Ma quello nasce così, lo lascio così, dai. No, ma te l'ho detto, sì, DM1000 sicuramente va bene. Il baracchino, l'Alan 48 è stato toccato, chissà come. Che ore sono? Pensa che io non ho pranzato e non avevo voglia anche. E quando ti stanchi un po' ti passa la voglia di mangiare. Deve essere bello rilassato per mangiare, se no ti viene l'affaticamento, almeno così fa a me. Bene, bene. Dai, riprendete un po' voi che tolgo quell'apparecchio dallo stanzino, quindi ho il 48 multi, un attimino. Sì, allora, Alan 48 plus, no scusa, cosa sto dicendo? Alan 48 XL multi, XL c'è scritto, Alan 48 XL multi, display color ambra, non è col colore blu, è il precedente, colore ambra, giallino, no? Sì, XL. Eia, dai, voglio farti contento. Almeno ti sentiamo bene anche dalla barra mobile, poi volendolo puoi piazzare momentaneamente in casa per fare le prove, non c'è problema. Non c'è problema, naturalmente ti devi far aiutare per il DM1000, ci vuole lo spinotto a 6 poli particolare che io non ho. È uno spinotto Midland da 6 poli, insomma basta uno spinotto a 6 poli che abbia la... Gli spinotti giusti, dai, non è difficile. Marco, dai, io ti saluto, sto andando a portare in città. Perché basta andare la cosa a fuggire un po'. Eia, eia. Dai, un attimino, torno subito, un attimino, lasciate bianco. No, ma è che secondo me hanno messo più di 300 con l'apparecchio, che non è possibile. Cioè, il DM1000, guarda com'è. Cioè io mi sto ascoltando, invece ti faccio fare l'ascolto, mi sto ascoltando ed è chiarissima la voce. No, oh, sì, non è chiaro, dai, io se non sapevo così. E tutto si fa, ma gli sono passati un po' per me, sono detto che sono ricordato. No, tutto di questo, mi scopra, dell'apparato. E quando ti ho detto prenditi un apparato di cui devo dimenticarti, anche se dico subito, non è spesso, non sei insulto, quindi una volta e vedo di scommetto. È capace che ti sia rovinato e stanno fermo magari. C'è osso, dovendo, cose, capito? Stanno fermo qui magari, in città. Ora ti saluto io che vado a portare in città. Ciao Marco, ciao Eugenio, Claudio quando rientra per il fatto. Ciao Gianni. Ciao. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Ma tu che lo conosci quel microfono che c'è Eugenio? Quando ho controllato se le connessioni sono giuste. L'apparato, capito, non avete giusto, l'apparato che è stato scacciato in stanza. Sicuramente non ho portato il centro, ma è stato scacciato in stanza. Quindi per quello che esce così male. Martino Vecchio. E poi c'è che l'ha buttato tanti anni in magazzino, in garage, tutto è utilizzato. Comunque oggi quando vuoi basta farmi un fischio, capito? E sistemiamo tutto, prendiamo quello di Coso, di Marco, meglio della 48, perché Marco è anche una baracchina, se lo prende te lo fa sentire adesso. Beh, no, Marco è sempre disponibile in queste cose, no? Non c'è niente da dirlo, a differenza di altre carogne. Ci siete? Allora, ecco qua, c'è il filo che fa falso contatto, questo è l'Alan 48 XL Multi che devo dare a Eugenio, ha un falso contatto sui fili che sono cavi dell'alimentazione che sono fatti a nastro, insomma, però adesso si è acceso. Vedi un po' com'è la modulazione, Claudio. 1-2-3-1-2-3, canale 10, modulazione AM. Eugenio, mi ascolti? Vai Claudio. Benissimo, la modulazione 5 perfetta, con gli acuti, non vai battato in bocca, va bene. Sì, vabbè, quella è una coglionata, si mette il mammut, si fa bene il tavolo, capito? Eugenio, la senti la radio? La senti come sta uscendo? No, fuori, fuori Eugenio. I cavi sono fuori. Guarda, all'inizio non è acceso, come ho toccato il cavetto, appena appena è acceso. Quindi sarebbe meglio farlo con i mammut, che però io non ho, non ce li ho i mammut. Anzi, sarebbe meglio rifarlo tutto da capo, capito? Però bene, perché io sono un po' pasticcione con nastro isolante. Eccolo qua, se lo vuoi provare in FM lo proviamo anche in FM. Quindi Claudio, com'è come volume di modulazione? Com'è? Io sto parlando normale. Bella, ti ha chiesto Eugenio se c'è la staffa. Naturale, sì sì, staffa originale, magari se c'hai i gommini da mettere all'atto, io non ho i gommini, anziché i gommini ci ho messo, sai che cosa? Due pezzi di guarnizione, che guarnizione è? Sughero, sa cazzo è? Carta, due guarnizioni in carta di non so cosa erano, capito? Però se c'hai dei gommini da mettere è meglio, perché si regola meglio, dai. Bravo a tutti Eugenio, dotate la radio a Putedini. Oggi quando vuoi sali col campo, ti ho detto, vieni sotto a casa che c'è spazio, posteggio e tutto, chiamiamo Marco, ce lo facciamo portare, per me anche domani non ce n'è problema, quando vuole Marco, capito? E così lo piatti, lo provi, intanto tu sabato domenica usi il camper e vedi un pochino, capito? Sono convintissimo che è meglio di quello che c'hai, basta sentirlo, è una canonata quella radio. E c'è anche watt sicuramente, perché sei 9,30 qua Marco. 4 watt, Claudio, sempre 4 watt. Questo, vabbè, in origine era omologato, però questo c'ha 400 canali, 400. Volendo puoi mettere la modalità Italia, cioè puoi mettere la modalità Italia e ne hai 40, capito? Lo puoi un po' far camminare come vuoi, puoi mettere la modalità, vabbè, tipo i canali inglesi, che però a lui non interessano, capito? Facciamola, però mi devi offrire un caffè, Eugenio, almeno un caffè mi devi offrire. Ehi, guarda, io ne ho tante, c'ho roba di 15 radio, sia vecchie che nuove, anzi un po' le ho date. A Pomponio le ho regalato le Connex 4000, ecco. Poi il Viking 2 era stato venduto, vabbè, 30 euro per dire, ma una cifra simbolica. Oh, c'ho anche le istruzioni qua, c'ho anche la scatola e tutto mi. Quindi è in perfetto stato, a parte qualche graffietto. E per te va benissimo, dai, sono. Voglio che moduli bene, dai. Claudio, lo organizziamo domani. Allora, quella che vuoi tu, Claudio. No, io ho problemi, no. Non ho problemi, tu sei dormiglione, io mi attoppetto. Non so se volete fare dopo mezzogiorno, non so, tanto sono sotto casa, quindi 11:30, non lo so, vedete voi, per me non c'è problema. Ascolta, se facessimo pomeriggio, o dormi tu Claudio, riposi pomeriggio? No, beh, se Eugenio è disponibile anche il pomeriggio, per me non c'è problema. Io sono sempre sdraiato nel divano, non è che dormo, non è che mi curico. Capito? Se mi dite che va bene così, non lo so, vedete voi, per me non c'è problema Marco, non c'è problema, oppure se tu non sei disponibile di mattina, io passo, o me lo prendo, e poi Eugenio passa, lo piazziamo, insomma, vediamo un po', oppure se ci vuoi essere tu è meglio, come voi, vedete voi, io non ho problemi, ditemi quello che devo fare, io lo faccio. Tranquillo, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio. Sì, almeno vengo anch'io, almeno ci conosciamo, dai. Ok, possiamo fare giù Eugenio nel pomeriggio, bene ti va. E poi lì c'è c'è anche posto per il camper là, qua non, qua è un casino, lì c'è più posto, capito? Per piazzarlo è tutto. Se poi i cavi li vuoi fare tu, meglio ancora, dai, li fai, o li fai fare bene, insomma, ben bene, perché io sono pasticcione col nastro isolante. Purtroppo Mammut non ne ho, dovrei stare andare a comprarli e si allunga la cosa, capito? D'accordo, dai. Allora, l'orario cosa facciamo, Claudio? Dimmelo tu, io sono sbandato, non ne ho orari. No, io ho problemi, mettetevi d'accordo voi, tu con Eugenio, io sono qua, dovete venire qua, quindi non mi venite alle 3, alle 4, alle 5, alle 6 siamo a casa tua, pronti, io sono qua, mettetevi d'accordo voi due, a Marco dillo, a me mi va bene, anche a Luna, non c'è problema, hai capito? A Marco, Marco alle 3 bene ti va, troppo presto, alle 4, alle 5, alle 6, da lì ho tu un orario, scusa No, alle 3 va benissimo, dai. Alle 3 pomeriggio, adesso Claudio non mi ricordo esattamente dove abiti tu. Però bene o male la zona è quella, dai. Se ti fai vedere in strada, ti metti così, con le bandiere, a fare segnali, riesco a trovarti, dai. Ah, io dove c'è il campo da San Paolo, dove c'è l'edicola di via La Malfa, dove c'è la rotattuglia, che ormai non sei dove l'edicola, che ti fermi all'edicola, vengo a prenderti io. Praticamente allora passiamo da via Ulo La Malfa, non da via Milano, no? Se passi da via Milano, dove vieni tu? Se fai via Lotto, scusa, e cosa passi, quanti giri devi fare? Da casa di, se passi davanti a casa di Antonello, devi scendere dall'altra parte, ok? Se fai via Milano, vedi l'edicola interna, dove c'è la rotonda, c'è un'edicola interna, perché c'è via Milano, si entra nella rotonda e quella è via Ulo La Malfa. Quindi, se ti fermi all'edicola, vengo a prenderti io alle 3, Eugenio già lo sa dove abito. Ehi, bene o male ci troveremo, dai. Va bene, va benissimo, dai. Allora, domani alle 3. Ci vediamo, dai. Se no, se ti metti già veniamo noi a pigliarti, non ti preoccupare. Comunque tu mettiti già tutto pronto, staffa, staffetta, baracchino, ok? E te lo tieni pronto. Io alle 3 ti chiamo e così mi dici dove sei. Tu oggi già lo sai dove sono. Ehi, dai. Va bene, buona serata Eugenio, buon tutto. Ci vediamo domani alle 3, ok? Ciao ciao. Anche tu Claudio devi andare, dai. Io devo anche pranzarmi, non ho mangiato tutto il giorno. Prima ero un po' stanco perché ho fatto quella un po' di fatica, adesso ceno, dai, pranzo, ma allora di cena pranzo. Ciao Eugenio, ci vediamo domani alle 3, dai, non ti preoccupare, già sono qua. Telefono, non c'è bisogno di portare niente oggi, telefono, porta il telefono, cioè, ci aggiorniamo telefonicamente, tu Marco esci di casa a meno un quarto, meno 10, capito? E cerca di arrivare alle edicole Carboanzi, o dove c'è il campo sportivo, qua della San Paolo, dove c'è la chiesa, Antonio, cerca di avvicinarti il più possibile, sotto casa di Antonello, se non vuoi fare molta strada, che la conosci a memoria, ti fermi lì e veniamo lì, non c'è problema. Eia, va bene dai, già non ci perderemo, ok? Adesso cerco la scatola, dovrei avercela sopra l'armadio, così ci sono le istruzioni, c'è tutto, forse c'è anche la... Vabbè che ormai è scaduta la ricevuta di quello che me l'ha venduta. Sai che me l'aveva venduto a me questo usato garantito, quel farabutto di Luca, come si chiama? Non mi viene più il nome. Luca, chi? Ma di quello dei vecchi tempi. Luca con due C, Magic Phone, Montagnani, quello lì. Ah, quello di Luca, non ho capito dove è venuto Luca. Ehi, Magic Phone, Franco Montagnani. Ehi, era un usato garantito, poi l'ho usato due dì e poi non l'ho più usato. A me piace il baracchino multicanali o quantomeno che sia 3009, eccetera, dai. Vuol dire, ci organizziamo una pizza, fatti vedere sotto casa a quell'ora. Io le tre ti chiamo, capito? O chiamami tu, mi ci vedi che sono sotto, io scendo per non stare in mezzo strada. Poi guardiamo dove è Marco, se ci arriva qui ci arriva, se no andiamo dietro a casa Antonello. Capito? Non c'è problema, già ci organizziamo. Stai sereno, che il problema è già risolto, e lì ci lo mettiamo, se andiamo sotto casa Antonio è meglio così, lo citofoniamo e glielo lascio e glielo facciamo controllare a vedere cos'è, se qualche media frequenza spostata, se qualcosa. Ciao Eugè, buonasera, buon tutto, saluti a casa, domani passo e chiudo, vai Marco, andiamo, devi cenare allora, devi pranzare, chiudo anch'io. Sì, un attimo, sì sì Claudio, adesso mangio qualcosa, dai. A domani. Ok, dai, se non mi vedete Giovanni Carbonazzi venite da Pomponio, così gli lascia il 48. Ciao Eugenio, buonanotte, ciao Claudio, buonanotte. A domani, ciao ciao. Ciao Marcolini, grazie della disponibilità, dai. Ci vediamo domani. Poi ci prendiamo un caffettino, dai, tanto io già è presto, quindi non ho problemi. Siamo alle 5, posso stare fuori in casa. Va bene, a domani, passo, chiudo. Ciao a tutti, buonanotte, ciao ciao. Ciao ciao ciao ciao Gianfra. Ciao ciao, andate, ce l'ha. Ciao Gianfranco, ciao. Buonanotte. Buonanotte e buon volo soprattutto. Ci fate l'agguato? L'agguato a pallettoni? Sì, ci troviamo in un posto e ci troviamo il killer con i pallettoni. Ah no, pensavo per abbatterti quando voli, no? Eia. Eia, fra poco prendo il volo e vado a mangiare un po' di frutta. Va bene, dai. Buonanotte a tutti, buona serata domani, ciao. Che sia però mia, io che ho fame. Ciao ciao, non riprendo, eh. Ciao ciao ciao. Poverino, ragazzi, c'ha fame, e mangio. Allora, sempre lo si chiede, io. Mangiando di tutto. Mamma mia, ci fa un po'. Vado anch'io. Sono un po' un mal di gola anche oggi, che non tu hai scatto, guarda, questa cosa non passa di più. Pazienza, ci vuole. Sì, mi ha fatto un altro 15 giorni, bella rottura, stai a casa. Penso che sia già a buon punto, un buon punto, penso che sia a buon punto, come mi diceva, un punto che sarà già presentata, io sto preparando altri documenti e piano piano già farei, piano piano già stiamo bene. Grazie. Per quello dei piani l'importante è andarci con gli esperti, perché sono molto capito, se non ti vedono quasi dentro la casa non ti manda, sono micidiali, credo che siamo a Cagliari adesso infatti. Sì, beh, io ho fatto la visita a Cagliari, non c'è problema, capito, io ti faccio ridere a proposito della battuta che mi hai fatto. L'ultima volta che sono stato lì, che sono andato a portare bene tutta la documentazione per insomma non archiviarla ma comunque essere pronto a, mi ha detto questo funzionario lì al secondo piano, anche più al primo piano, forse vabbè non me la metto, comunque sopra salendo le scale, mi ha detto è tutto a posto la documentazione, sì tutto registrato, tutto ok, guardi lei è pronto, lei può andare in pensione anche da domani, però deve aspettare a 60 anni oppure a 42 anni e 5 mesi senza retribuzione, può andare da domani, la gli ha vendato, gli dice ma scusi un attimo, cioè posso andare in pensione da domani e mi pagate? No, purtroppo non si può fare, deve aspettare a 42 anni e 5 mesi oppure deve avere 60 anni, quindi sempre 2 anni me ne mancano. Ma gli dice, ma cioè lo sta dicendo, ma di cosa devo campare io di aria? Allucina. Sì, infatti tutti che sono nati gli esodati, no? Per carità, guarda, vogliono prese spararsi. Adesso si stanno litigando perché qualcuno è tornato alla carica dicendole che loro devono andare in pensione come gli altri e con pensioni normali, non con mega pensioni. Oi, chissà se ci riescono, ma poco ci credo. Ma cosa? Aspetta lei. Già fa, grazie, sì, ho telefono mio genero, stavo parlando appunto di cantieri. Se ci sei, mi stai ascoltando, ti saluto, vado a cenare, a domani, ok? Ok, va bene. Ma ti volevo dire una cosa, se ti può interessare fare ascolto, senza anche radio, sul sistema nazionale, locale, mondiale del DMS. Possiamo parlarne, perché no? Sì, ti mando un link dove ti collega la rete, ovviamente non puoi passare, ma puoi ascoltare tutto il mondo, per chi fa ascolto magari, per chi vuole passare un po' di tempo può essere utile. Vabbè, domani ne parliamo. Ok, sentiamo buona cena. Mandami il link, già lo sai, se devo dei film che io sono artista del QTT e così passo il tempo, non c'è problema già, poi se ho difficoltà vieni tu, me lo sistemi tu. Dimmi se c'hai nel computer, siccome non supporta Explorer, c'hai anche Google Chrome come browser? Gianfra, mi stai facendo una da 100.000 euro, non lo so, per il computer è nuovo, devo chiedere a Luca cosa ha configurato quel computer. Ok, non lo so, devo vedere e poi ti faccio sapere. Tu comunque mandami il link, mandami l'email, capito? E così lo proviamo. Ok, dai, io ti mando un paio di link, così tu puoi esplorare, dai, ti metto quello generale e quello nazionale. Comunque ti puoi ascoltare, comunque vabbè dai, cerco di sistemarlo, non c'è molto. Poi domani sera ci sentiamo. E io, K, in ogni caso non c'è problema. Vieni qua, lo sistemi tu. Massima libertà e carta bianca, come sempre. Ok, ci aggiorniamo domani, dai. Se è pronta la cena, c'è questa, si rimette a voce. Ciao. Ok, poi dopo passare anche alla Papignana, ascolto, tanto. È solo una connessione esterna. Ok, ciao. E poi dopo passiamo anche a lui, non c'è problema. Ciao.